Time Out di Luca Mastrantonio. Ultime polemiche notizie dal mondo del cinema. Venezia è sbarcato il film di Michele Placido, Vallanzasca, Gli Angeli del Male, dedicato al rapinatore di banche, il bel René, ma incarnato da Kim Rossi Stewart, un divo decisamente seduttivo, ha sollevato molte polemiche perché è un'opera un po' troppo simpatetica, un po' troppo simpatico, oltre che bello. Infatti l'associazione Vittime del Dovere, i familiari dei servitori dello Stato uccisi da criminali comuni, hanno protestato e hanno detto con una lettera al Corriere della Sera: gli incassi di questi film che cantano le gesta di alcuni criminali andrebbero devoluti ad un fondo per lo Stato e poi magari destinati alle vittime, come succede in alcuni paesi più civili come l'Inghilterra. Il Ministero dei Beni Culturali ha fatto sapere che sarà difficile dare un aiuto di Stato economico a questo film, appunto dai temi etici complessi e forse anche discutibile sul piano estetico. Ma a Venezia è sbarcato anche Mario Martone con Noi Credevamo, un affresco sul Risorgimento che ci aiuta a capire qualcosa di più di un Mazzini presentato persino come un terrorista, come un Bin Laden, come un Tony Negri, un cattivo maestro. Ma allora è possibile raccontare al cinema le gesta di un criminale, di un bandito, senza di divinizzarlo? E ancora, quanto deve pesare il rispetto per la memoria delle vittime? Quanto invece la libertà d'espressione deve essere totale? Gli aiuti di Stato, appunto, si possono dare a film che maltrattano la memoria di alcuni servitori dello Stato? Oggi a Time Out parleremo di questo. Io sono Luca Mastrantonio e ancora una volta alle 9:30 vi guiderò per trovare un filo logico, un filo d'Arianna all'interno di notizie spesso contraddittorie, di polemiche che ci confondono le idee. Parleremo del film di Michele Placido, parleremo di altri film dedicati a terroristi che appunto hanno suscitato molte polemiche, ma intanto, visto che a Placido, che un po' in maniera sbruffona in conferenza stampa ha detto ci sono criminali in Parlamento peggiore di Vallanzasca, un criminale, essenzialmente un rapinatore di banche, regaliamo a Michele Placido un po' di soggetti che possano dare scandalo al cinema. Il mio amico Osama, compagni di merende e compagni che sbagliano, vite parallele di Pacciani e Tony Negri, Donato Bilancia, amori pendolari, Pribke, il vecchio e il male, Cesare Battisti, spari e parole. Quest'anno Rai Cinema è a Venezia presente con film molto importanti, alcuni anche molto belli. Noi Credevamo di Mario Martone, un grande affresco sul Risorgimento, ed è assente, a nostro modesto avviso giustificata, perché non ha prodotto il film di Michele Placido, Vallanzasca, Gli Angeli del Male. Michele Placido in conferenza stampa ha anche un po' polemizzato dicendo che questo era un film che Rai Cinema e Medusa non hanno voluto fare perché era scomodo. Beh, lo chiediamo a Caterina D'Amico, che fino a un mese fa è stata amministratrice delegata di Rai Cinema. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, ci racconti come mai questo progetto non ha convinto Rai Cinema? Beh, io non lo definirei un progetto scomodo, lo definirei un progetto non interessante. Quando io l'ho ricevuto parecchio tempo fa, prima ancora che il regista designato fosse Michele Placido, il regista avrebbe dovuto essere un altro regista altrettanto stimato, stimabile. Chi? Era Marco Risi. Sì. Comunque, io non lo trovavo interessante. Non trovo interessante le vite dei malavitosi in quanto tali. Se il percorso, se la biografia di un malavitoso mi racconta anche qualcos'altro, mi fa capire qualcos'altro, allora penso che sia interessante, altrimenti di per sé non vedo perché dovrebbe essere raccontata. Ecco, e senta, c'è solo, diciamo, un vincolo artistico, estetico, quale appunto lei adesso ci ha raccontato, l'importanza di un contesto e di una parabola di ascesa e magari discesa o comunque appunto uno svolgimento. C'è solo un vincolo, un principio artistico, estetico nella valutazione se accettare o meno un progetto a Rai Cinema, oppure è necessaria anche una sensibilità forse maggiore etica, visto che è comunque la sezione che produce cinema per un emittente di Stato e spesso questi film vanno a profanare anche un dolore, una memoria, quella dei familiari, delle vittime che spesso sono proprio servitori dello Stato. Mi è difficile a me distinguere le due cose, nel senso che una cosa bella è anche una cosa giusta e viceversa. La rappresentazione, lo sappiamo tutti, presuppone, auspica addirittura il concretarsi di un meccanismo di identificazione tra il pubblico e la realtà rappresentata. E quindi, in quanto tale, tende automaticamente ad esaltare, a rendere simpatico, in senso etimologico, l'eroe di cui noi seguiamo il percorso. È proprio l'esempio di Vallanzarca, che appunto è stato accusato da molti critici di essere stato presentato in maniera molto simpatetica, però insomma anche a testimonianza dell'assenza questa di... Questa è una cosa di per sé abbastanza discutibile. Ecco, nella sceneggiatura forse anche già qualche battuta, a me guardando il film ha colpito quella in cui c'è Kim Rossi Stewart, bellissimo, che a Radio Popolare dice in un collegamento: io non sono cattivo, è che ho lato oscuro molto pronunciato, sì, e tutti a ridere in sala. È una battuta terrificante, perché può essere una battuta plausibile, ma dovrebbe essere la giustificazione per fare questo film, e francamente io non posso aderire. Chiarissimo. Non me la sento di aderire a questo modello, e la situazione lì, lo scavo psicologico all'interno di questo personaggio non mi dà alcun approfondimento. Che forse c'era in un altro film, che invece è stato appunto invece ha incontrato un consenso, che è quello di Rai Cinema di Prima Linea di Renato De Maria, tratto da Miccia Corta di Sergio Seggio. Lì cos'è che invece appunto l'ha convinta? Lì c'è un discorso diverso, perché la questione è estremamente delicata, ovviamente, perché anche lì si corrono gli stessi rischi. Scamarcio, un bello, oscuro. Si corre il rischio di usare un attore popolare, affascinante, bello, per, come dire, giustificare qualche cosa di orrendo che è accaduto. Ma secondo me, se si riesce a tenere il timone in modo sufficientemente saldo per non giustificare ma cercare di spiegare, allora l'operazione è corretta. Perché di un periodo storico così complesso, così oscuro, così terribile come quello che abbiamo attraversato, è lecito andare a cercare di capire perché è avvenuto, che cosa è avvenuta nella testa di una generazione. Allora, indagare questo, secondo me, è interessante, ha una funzione sociale. E indagare nella testa di un rapinatore di banche, francamente, mi sembra irrilevante. Benissimo, noi ringraziamo Caterina D'Amico di essere stata con noi a Time Out. Grazie a voi. E appunto ascoltiamo il monologo di Scamarcio, in cui, interpretando Sergio Seggio in Prima Linea, fa una sorta di mea culpa e un bilancio della sua avventura terrorista. Nella seconda metà degli anni 70 sono stato tra i fondatori del gruppo armato Prima Linea. Avevamo scelto quel nome perché volevamo essere la parte più avanzata del movimento e addirittura di un futuro esercito popolare. Noi di Prima Linea abbiamo fatto cose da pazzi, è vero, ma non eravamo pazzi. Oggi, mentre tra le strade di Berlino si fa festa per la caduta del muro, oggi che la storia sta cancellando quel che resta del comunismo, so che eravamo fuori dal tempo, fuori dal mondo. Avevamo scambiato il tramonto per l'alba, ci credevamo noi partigiani. Avevamo scambiato il tramonto per l'alba, ci credevamo partigiani, eravamo dalla parte del torto. Questo è importante, appunto, monologo di Scamarcio ha un ruolo chiave in Prima Linea, al film di Renato De Maria su Sergio Seggio, ispirato al terrorista, al suo libro Miccia Corta, un film che non piacque a Seggio e non piacque a Bondi. Perché non piacque a Bondi? Il ministro disse: è un film che urta la sensibilità dei parenti delle vittime. Eppure è piaciuto, ha avuto un giudizio positivo a una sindacalista, a una deputata del PD, alla vedova del giuslavorista D'Antona ucciso dalle BR, Olga D'Antona, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, ci racconti insomma il suo giudizio su questo film. Ma io credo che i giudizi, diciamo, malevoli sul film siano stati dati prima ancora di averlo visto. Tutto ciò che parla di terrorismo deve essere negato, e soprattutto quello che maggiormente disturbava era il fatto che un film sul terrorismo potesse avere un finanziamento dello Stato. Innanzitutto io penso che la cosa peggiore sia l'oblio, sia dimenticare, sia non parlare di certi argomenti. Dopodiché, avendo visto il film, mi pare che questo film racconti tutto il fallimento di quegli anni, e lo stesso Scamarcio rappresenta così bene questo fallimento e così bene la consapevolezza poi alla fine del fallimento. Non mi pare, insomma, che da parte di qualcuno, dopo aver visto questo film, ci possa Un essere dubbio. il desiderio di emulare, perché poi questo è il rischio, no, che noi Certo. corriamo. C'è forse una fascinazione da parte spesso anche delle attrici nei confronti di questi banditi o terroristi? Penso, ricordo Fanny Ardant che disse Curcio è un eroe, o la Carla Bruni che avrebbe aiutato la fuga di Cesare Battisti in Brasile. Ma lei ha toccato due temi. Uno è quello dell'attore che necessariamente deve attrarre il pubblico, quindi deve avere comunque un aspetto gradevole, no? E questo rischio c'è sempre, insomma, che diventi una figura carismatica. Io questo però, devo dire, non l'ho visto nel caso di Scamarcio, che ha rappresentato così bene il dolore, il fallimento, che quasi ci si dimenticava vedendolo recitare in quella parte che avesse dei begli occhi, e questo è un merito tutto suo. E della Fanny Ardant con questa uscita su Curcio Ecco, di... questo è un altro tema invece assai più pericoloso, che c'è purtroppo un nucleo di intellettuali in Francia che a seguito della dottrina Mitterrand, che ha accolto nel seno della Francia moltissimi dei terroristi, ex terroristi italiani, sono coccolati, diciamolo pure, da tutto un mondo artistico e culturale francese, che io ho chiarezza del fatto che non hanno assolutamente capito che cosa è stato il terrorismo in Italia. Hanno fatto di questi terroristi una specie di eroi, ma loro continuano a vivere il mito della rivoluzione francese, che non ha nulla a che vedere. In Italia non c'è stata una rivoluzione. E Ecco, quindi questo non fanno. hanno capito, che è stata un'illusione, è stata un errore storico e che E ha c'è un portato. po' di civetteria, concludendo, insomma, anche in queste attrici. Ecco. Assolutamente sì, Benissimo. assolutamente sì. Noi ringraziamo Olga D'Antona di essere stata con noi a Time Out. Arrivederci, grazie, Grazie. buongiorno. Time Out. Nous sommes des amis di Monsieur Filippo Strozzi. Parliamo in italiano allora. Il vostro signor Strozzi ci infonde la speranza che un giorno faremo parte di una stessa nazione, noi tutti che parliamo la stessa lingua. Ed è proprio questo che amiamo in lui, non è così? L'ispirata fede di Mazzini. Via. Le polizie di mezza Europa sanno che Filippo Strozzi è il nome di battaglia di Mazzini. Noi credevamo una scena anche seducente, in cui una marchesa che fiancheggia Mazzini, che è Filippo Strozzi sotto mentite spoglie, protagonisti di Noi credevamo, un film epico molto originale di Mario Martone, quasi 4 ore, che però ci tengono inchiodati alle poltrone perché ci raccontano anche un risorgimento decisamente chiaroscurale. E Martone si è avvalso nella sceneggiatura della collaborazione importante di Giancarlo De Cataldo, magistrato e scrittore diventato noto con Romanzo criminale che ha fatto scuola, che a ottobre potremo rileggere per Einaudi con un nuovo romanzo Traditori, appunto incentrato sul Risorgimento, ed è in linea con noi Giancarlo De Cataldo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Il cinema forse serve ad accendere un riflettore, a illuminare lati anche oscuri della nostra storia. Beh, fondamentalmente il cinema serve a raccontare storie. Se poi le storie, come in questo caso, individuali, si intrecciano con la grande storia, e se la grande storia è quella della nascita di una nazione, della nazione italiana, un'epica, che noi abbiamo dimenticato, abbiamo coltivato in modo distorto, addirittura tendiamo a negare, vittima di opposte retoriche, allora ci sono tutte le premesse perché il cinema abbia anche un valore che forse va persino al di là dell'opera cinematografica, come oggetto di discussione e, perché no, anche oggetto di scandalo, oltre che di passione, io mi auguro, per il pubblico. Io voglio solo dirvi una cosa: alla fine della proiezione c'era già John Turturro che mi ha fermato e mi ha detto: "Ah, io ho scoperto che c'è anche un'epica italiana". Beh, meno male. Ecco, e quindi appunto scandali, il cinema deve dare scandalo. Il film Vallansasca, Gli angeli del male di Michele Placido, per molti critici, anche a nostro modesto avviso, è stato un po' una copia sbiadita in salsa meneghina del film, invece più riuscito, tratto da romanzo criminale. Lei, De Cataldo, che... Riuscirete a a farmi fare polemica con Michele Placido neanche sotto tortura. Neanche io sotto... non ho ancora visto Vallanzasca, ma sono certo che sarà un bellissimo film. Da magistrato, invece, che impressione si è fatta però sulle polemiche che riguardano a volte gli aiuti di Stato per dei film che magari possono urtare fortemente la memoria di servitori dello Stato, perché magari la libertà d'espressione garantita dalla Costituzione è inalienabile, però forse al mercato andrebbe lasciata questa libertà e non magari foraggiata con i soldi dello Stato, che forse ha anche il diritto, prima di tutto, di onorare la memoria dei suoi servitori. Ma sarebbe un dovere quello di onorare concretamente la memoria dei servitori, però io non metterei in contrapposizione la memoria, il diritto alla libera manifestazione, ma anche il diritto alla produzione artistica che, come dire, fa del racconto del male intorno al male una delle componenti essenziali fin dai tempi della Bibbia. Non le metterei in contrapposizione, direi che magari bisogna essere più cauti nel fare certe dichiarazioni come quelle che ha fatto Michele Placido, o forse meglio non farle addirittura, ma tendo a rivendicare il diritto di raccontare, anche il diritto di raccontare i cattivi. C'è stata una proposta dell'Associazione delle Vittime del Dovere e rilanciata da Maroni di destinare parte degli incassi di questi film a un fondo gestito dallo Stato. A qualcuno però sembra anche quasi un baratto, insomma, dolore in cambio di soldi. Lei che impressione, che riflessione si sente di fare al riguardo? Ma io, se fossi toccato nei miei affetti in modo molto forte e violento, non andrei neanche a vedere questi film, per intenderci. Però ecco, non toccherei il diritto degli artisti di raccontare queste storie, non ne farei appunto oggetto di mercato, ma non utilizzerei nemmeno il dolore delle vittime come un alibi per stendere veli neri sulla nostra storia passata. Non riuscirò a farla parlare male di Michele Placido, non era neanche mia intenzione, proverò a farla parlare male però di De Cataldo, perché in fondo il romanzo criminale, il romanzo e poi il film, che sicuramente erano molto equilibrati nel raccontare il mito. Forse sulla fiction, e vorrei fargli ascoltare la clip con cui la fiction di Romanzo Criminale è stata raccontata, beh, la morale viene forse invece un po' a pendere dalla parte dei criminali. Sentiamola assieme. Allora, dimmi, figliolo, cosa hai fatto? Niente, padre. Ho pestato un uomo che voleva far furbo e che si era preso i soldi nostri. Pentito? No, morto. Il crimine paga. Romanzo criminale, la serie. E allora il crimine paga, concludendo, almeno al cinema, De Cataldo da scrittore. Ci confessi. Io ho paura invece, al contrario, se voi avete la pazienza di aspettare la fine della serie, che tra un po' andrà in onda. Non ce la riveli. Ci lasciano tutti le penne. Direi al contrario, anche un po' amaramente, che il cinema e la fiction sono gli ultimi luoghi al mondo nei quali il crimine non paga. Benissimo, cioè, ha rassicurato i moralisti e noi insomma aspetteremo la fine della serie. Ringraziamo Giancarlo De Cataldo di essere stato con noi a Time Out. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. De Pedis, la canzone degli Amor Fu dall'album I Moralisti, quasi un invito ovviamente a fare i moralisti. Questa canzone è dedicata a Renatino, il dandy di Romanzo criminale di De Cataldo. Ci furono grandi polemiche per questa canzone, con un arrivederci primo amore mio che si violenta gode, dedicata a De Pedis. Ma siamo in linea con un giornalista che per primo ha dato ampio spazio non ai terroristi, ai criminali, ai banditi, ma alle vittime. Giovanni Fasanella, ricordo, giornalista di Panorama, due libri importanti: Guido Rossa, mio padre, una conversazione con la figlia del sindacalista ucciso dalle BR, e Il silenzio degli innocenti. Buongiorno Fasanella. Buongiorno a voi. Ecco, prima di parlare di cose più serie, la memoria, comunque un commento su Romanzo criminale, alcuni fenomeni che dal cinema alla musica, alla fiction, anche al marketing, perché la serie televisiva a Roma fu lanciata con dei finti busti che celebravano i banditi della Magliana. Lei, da giornalista, insomma, da storico quindi del presente, che impressione si è fatta di questo fenomeno, la cui morale per qualcuno è che il crimine paga, anche se De Cataldo ci ha detto che alla fine il crimine non pagherà neanche in TV? Ovviamente raccontare le gesta di un fenomeno estremamente complesso, qual è stata la banda della Magliana, è cosa sempre utile e necessaria. Non credo però che siamo di fronte a una vera e propria apologia di fenomeni quel genere. Bisogna saper distinguere e giudicare di volta in volta, ma questo non deve in alcun modo mettere in discussione il diritto di raccontare. Lei, tra l'altro, con Gianfranco Pannone ha scritto e realizzato un documentario sui fondatori delle BR, Il Sol dell'Avvenire. Ovviamente ci furono molte polemiche, in particolare Bondi fu protagonista di un attacco molto duro al film, che ricordiamolo però era un documentario che, secondo alcuni critici, diciamo, aveva comunque un gusto di Amarcord. Per esempio, ricordo una scena Enrico Franceschini che ricordava, un po' descriveva una sua foto quando puntava una pistola contro un rapito. In realtà tutti quelli che ne parlarono non l'avevano visto e quindi ne avevano parlato senza cognizione di causa. Chi poi il film l'ha visto non l'ha giudicato filobrigatista, come voleva far credere il ministro Bondi. Era la ricostruzione della formazione, della nascita del nucleo brigatista di Reggio Emilia. Si conclude con un pianto terribile di uno dei protagonisti, che è una ammissione di colpa assolutamente inequivocabile. Ringraziamo Giovanni Fasanella di essere stato con noi. Grazie a voi. E il nostro time out sta per finire. Allora, schermi di piombo, la libertà d'espressione, il rispetto per la memoria delle vittime, quale equilibrio dobbiamo trovare? Beh, indubbiamente abbiamo capito che un'opera va prima vista e poi giudicata, ma che forse Rai Cinema, il Ministero dei Beni Culturali devono avere un occhio di riguardo nel finanziamento, nel finanziare film che hanno queste tematiche, per non far maramaldeggiare terroristi diventati star sul grande schermo sulla memoria sacrosanta delle vittime e dei servitori dello Stato. Io sono Luca Mastrantonio, Time Out è finito per oggi, ringrazio Alessandro Chiappini in regia, vi do appuntamento domani sempre alle 9:30 su Radio 24.